Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È lunedì, nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre, l'associazione difesa consumatori che è a noi tanto cara, ormai immancabile l'appuntamento al telefono quest'oggi con Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, noi parliamo con il telefono, spesse volte io da telefono fisso, tu da cellulare. Perché dico questo? Perché magari qualcuno non lo sa ancora, ma da tanto tempo c'è una tassa sui telefoni cellulari su chi sottoscrive un abbonamento. Sì, allora è da tanto tempo, è dal 95. La possiamo chiamare con un acronimo TCG. Tanti la conoscono come tassa di concessione governativa, tanti non la conoscono. È stata introdotta proprio nel 95 perché il telefonino era considerato ancora un bene di lusso. Sì. Quindi quella tassa ci poteva anche stare perché era proprio riferita ai beni di lusso. Il problema è che esiste ancora. Il problema è che esiste ancora e che devo dire, Francesco, che praticamente nessuno lo sa. Il problema è che quando qualcuno scopre questa tassa nell'abbonamento del suo telefonino, adesso spieghiamo bene, ci chiama e ci chiede: ma è legittima questa tassa? Purtroppo dobbiamo dire che è ancora legittima non essendo lo Stato per un breve periodo, e devo dire anche grazie alla nostra associazione che aveva fatto un ricorso per un proprio socio e l'aveva vinto, e in quel momento era dibattuto il fatto che far pagare questi 5,16 euro, adesso diciamo un po' le cifre, al mese per questa tassa, alla fin fine con una sentenza del 2 maggio 2014 è stato definito invece, purtroppo, aggiungiamo, legittimo. Sì, infatti la differenza sta tutta nel fatto di avere una ricaricabile che magari paghiamo con un RID bancario piuttosto che un abbonamento che si paga sempre con RID bancario, ma che è diverso nella forma. Esatto, è nell'abbonamento troviamo la tassa di concessione governativa. Se faccio una ricaricabile, assolutamente no. Per cui è l'abbonamento nel 98-99% dei casi comprende già questa tassa. Il problema è che appunto l'abbonamento costerebbe per il privato 5,16 euro in meno se non ci fosse questo ennesimo balzello. Addirittura per le aziende e anche per le regioni, per i comuni, la tassa sale a 12,91 euro al mese. Quindi insomma non è che sia proprio un piccolo esborso. Appunto su un abbonamento da 50 euro comunque è un 10%, è più del 10%, chiaramente soldi che vanno allo Stato, che fruttano tra parentesi un'enorme quantità di denaro allo Stato e per i quali lo Stato non rinuncerà assolutamente facilmente, perché comunque stiamo parlando addirittura di decine di miliardi di euro di gettito in tutta Italia all'anno, quindi insomma è un gettito molto importante. Però succede che giustamente è stata contestata da noi, ma contestata anche da altre associazioni e contestata dai cittadini, proprio perché adesso che il telefonino è tutt'altro che un bene di lusso, è un bene a portata di tutti, non dovrebbe su di esso ricadere questa tassa, che appunto è una tassa che dovrebbe ricadere su certi tipi di beni particolari. Addirittura mi verrebbe da dire che il telefono fisso di casa è diventato forse il bene più di lusso, perché costa di più rispetto a una ricaricabile, a un telefono cellulare che uno se lo porta dietro comunque dovunque e ha dei costi più bassi. Sì, tra l'altro possiamo dire che il telefono fisso ormai è appannaggio solo delle persone soprattutto anziane. Sì. Non solo, però insomma ormai le famiglie giovani in casa hanno solo 2, 3, 4, 5 telefonini e neanche un telefono fisso, quindi come dici te sicuramente è più un bene di lusso il telefono fisso che ormai non ha più nessuno o hanno in pochi. Il problema è che appunto il cellulare ce l'hanno tutti e abbiamo appunto questo ennesimo balzello che non siamo riusciti a togliere per un periodo, ma purtroppo una sentenza esattamente della Cassazione del 2 maggio 2014 ha messo purtroppo definitivamente la parola fine a un argomento che cominciava ad essere molto dibattuto, per cui noi nel 2011 abbiamo vinto un ricorso, poi c'erano stati altri ricorsi vinti, però la situazione era ancora molto indecisa e purtroppo la parola fine è stata messa dalla Cassazione, però è stata messa nei termini che a noi non piacciono, cioè è stato detto che per i cellulari, per i privati, la tassa governativa è dovuta ed è legittima. E voglio dirti, Francesco, che qualche giorno fa, qualche settimana fa, è arrivata un'altra sentenza della Cassazione che ha dichiarato legittima la tassa di concessione governativa anche per gli enti locali. Quindi abbiamo messo la parola fine all'argomento. Per tutti i cellulari, chi ha l'abbonamento, quindi chi paga un canone, questo è importante dirlo, non per la ricaricabile, ma chi paga un canone, deve pagare anche questa tassa di concessione governativa. Io spero, noi tutti ci auguriamo, che comunque questa ennesimo balzello sulla testa dei cittadini prima o poi svanisca. Però devo dire che da un gettito, fornisce un gettito così alto, così elevato, che la vedo difficile. Dovremmo iniziare a fare una raccolta firme, mi sa, va bene. Allora, qualcosa del genere. Ricordo, associazionedifesaconsumatori.it, se avete bisogno trovate i contatti per chiamare la sede dell'Adico a Mestre. Grazie Gianluca Codognato, alla prossima. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.